una lettera che non volevate che suo padre vedesse. Suo padre, che tacitamente si era fidato della vostra onorabilità accogliendovi come inquilino in casa sua. Il figlio di vostro padre, io conosco bene il maggiore Cox, sarebbe dovuto venire da me dicendo apertamente: Mr. Gibson, io amo o immagino di amare vostra figlia. Non ritengo giusto nascondervelo, per quanto io non sia nelle condizioni di guadagnare un solo penny e non avendo alcuna prospettiva di mantenermi autonomamente per molti anni a venire. Non dirò una sola parola a proposito dei miei sentimenti o dei miei presunti sentimenti alla giovanissima signorina. Ecco, quello che il lavoro di vostro padre avrebbe dovuto dire, se in verità un paio di granelli di silenzio non fossero stati anche meglio. E se avessi parlato così, signore, forse avrei dovuto, precisò Mr. Cox frettolosamente nervoso. Quale sarebbe stata la vostra risposta? Avreste autorizzato la mia passione, signore? Avrei detto molto probabilmente, non posso essere certo delle mie esatte parole in un caso ipotetico, che eravate un giovane sciocco, ma non un giovane sciocco senza onore, e vi avrei detto di non lasciare che i vostri pensieri inseguissero un amore adolescenziale prima che questo venisse magnificato in una passione. E oserei dire, per riprendervi dalla mortificazione che vi avrei inflitto, vi avrei ordinato da medico di iscrivervi al club del cricket di Hollingford e di prendervi il sabato pomeriggio libero con la stessa frequenza con cui me lo prendo io. Per come stanno le cose ora, dovrò scrivere all'intendente di vostro padre a Londra e chiedergli di farvi uscire da casa mia. E io naturalmente restituirò la retta, che vi consentirà di ricominciare da capo nell'ambulatorio di un altro dottore. Mio padre ne sarà molto dispiaciuto, disse Mr. Cox sgomento, anche se non pentito. Non vedo altra soluzione. Questo darà qualche grattacapo al maggiore Cox. Provvederò a che non debba affrontare ulteriori spese. Ma ciò che credo lo addolorerà di più è il tradimento della mia fiducia. Perché io mi fidavo di voi, Edward, come se fosse stato mio figlio. Quando parlava seriamente, specialmente quando si riferiva a un suo sentimento privato, c'era qualcosa nella voce di Mr. Gibson, egli tradiva così raramente quanto avveniva dentro il suo cuore, che era irresistibile per la maggior parte della gente. Il cambiamento dallo scherzo e dal sarcasmo ha una dolce gravità. Mr. Cox provò vergogna e rifletté. Io amo davvero Miss Gibson, affermò alla fine. Chi può evitarlo? Mister Winnie, mi auguro, replicò Mister Gibson. Il suo cuore è già impegnato, ribatté Mister Cox, mentre il mio era libero come l'aria prima che la vedessi. Potrebbe essere utile alla cura della vostra, beh, diciamo, passione, se lei indossasse occhiali blu durante i pasti. Vedo che indugiate parecchio sulla bellezza dei suoi occhi. Voi vi state prendendo gioco dei miei sentimenti, Mister Gibson. Dimenticate di essere stato giovane anche voi? La povera Jane apparve davanti agli occhi di Mr. Gibson, che si sentì rimproverato. Andiamo, Mr. Cox, vediamo se possiamo fare un accordo, disse dopo un paio di minuti di silenzio. Avete fatto una cosa proprio sbagliata e spero che nel vostro cuore ne siate persuaso o che lo sarete quando il culmine di questa discussione sarà passato e ci ripenserete un po' su. Io non smetterò del tutto di rispettare il figlio di vostro padre. Se mi darete la vostra parola, che finché resterete parte della mia famiglia, allievo, apprendista, quello che volete, non tenterete di nuovo di rivelare la vostra passione, vedete che io sono attenta a usare la vostra definizione di ciò che io chiamerei un semplice colpo di testa, con le parole o con gli scritti, con gli sguardi o con le azioni, in qualsiasi modo possibile a mia figlia, e non confiderete questi sentimenti ad anima viva, allora rimarrete qui. Se non potete farmi questa promessa, devo seguire la strada che vi ho indicato e scrivere all'intendente di vostro padre. Mr. Cox stava in piedi, dubbioso. Mr. Winnie sa cosa prova per Mr. Gibson, signore. Non ci sono segreti fra noi. Beh, suppongo che lui rappresenterà la giuncaia della situazione. La sapete la storia del barbiere di Remida, che scoprì che il suo signore aveva le orecchie d'oro sotto i suoi riccioli simili al giacinto? Dunque, codesto barbiere, in mancanza di un Mr. Winnie, andò presso i giunchi che crescevano sulle rive di un lago vicino e sussurrò loro: «Remida ha le orecchie d'asino!» Ma lo ripeté talmente tante volte che che i giunchi impararono quelle parole e continuarono a dirle per tutto il giorno finché alla fine non fu più un segreto per nessuno. Se continuate a raccontare la vostra storia a Mr. Winnie, siete sicuro che lui non la ripeterà a sua volta? Se do la mia parola di gentiluomo, signore, garantisco anche per il signor Winnie. Immagino di dover correre il rischio. Ma ricordate com'è facile che il nome di una ragazza si ritrovi sulla bocca di tutti e ne risulti infangato. Molly non ha una madre e proprio per questo deve muoversi tra voi indenne come una in persona. Mister Gibson, se lo desiderate, lo girerò sulla Bibbia, esclamò l'emotivo giovanotto. Sciocchezze, come se la vostra parola, se vale qualcosa, non fosse abbastanza. Se volete, ci stringeremo la mano. Mister Cox si fece avanti con zelo e quasi schiacciò l'anello di Mister Gibson dentro la carne del suo dito. Mentre lasciava la stanza, aggiunse un po' a disagio. Posso dare a Betia una corona? Certo che no! Betia, lasciatela a me! Spero che non le direte un'altra parola finché rimarrete qui. Farò in modo che trovi un posto rispettabile quando se ne andrà. Mister Gibson suonò allora perché gli fosse portato il cavallo e uscì per le ultime visite del giorno. Egli era solito ritenere di compiere in sella nell'arco di un anno l'equivalente del giro del mondo. Nella contea non c'erano molti medici che avessero una cerchia di pazienti ampia come la sua. Egli si spingeva fino ai cottage solitari ai confini dei grandi pascoli, alle fattorie dove morivano le strette stradicciole di campagna che non conducevano in altre direzioni ed erano ombreggiate da olmi e da faggi. Si prendeva cura della nobiltà in un raggio di 15 miglia intorno a Hollingford ed era il medico condotto di famiglia ancora più importante che ogni febbraio si recava a Londra, come era di moda, e ritornavano seriamente. Molto spesso fuori di casa e in quella piacevole e dolce serata d'estate percepì la propria assenza come un grave danno. Si era sorpreso di scoprire che la sua piccola si stava rapidamente trasformando in una donna e nell'oggetto passivo di alcuni di quei forti interessi che influenzano la vita femminile. E lui, che le faceva da madre, oltre che da padre, non poteva, a causa dei suoi frequenti allontanamenti, sorvegliarla come avrebbe desiderato. Il risultato di queste cogitazioni fu che la mattina dopo sarebbe corso a Hamley e lì avrebbe proposto che la figlia accettasse il più recente invito di Mrs. Hamley, un invito che era stato all'epoca declinato. Contro di me potrete citare il proverbio «Colui che non vuole quando può, quando vuole avrà un no». «E io non potrò certo lamentarmi», dissi. Ma Mrs. Hamley era semplicemente troppo contenta alla prospettiva di ricevere la visita di una ragazza giovane, una persona che non le sarebbe stato difficile intrattenere, che poteva essere invitata a vagabondare in giardino o alla quale poteva essere chiesto di leggere quando la malata era troppo affaticata per fare conversazione. E tuttavia, un ospite, la cui età e freschezza avrebbero infuso un tocco di fascino, come un alito di tenera aria d'estate nella sua vita solitaria e reclusa. Niente avrebbe potuto essere più gradevole, così la visita di Molly a Hamley fu organizzata rapidamente. Vorrei solo che Osborne e Roger fossero a casa, disse Mrs. Hamley con la sua voce dolce e bassa. La ragazza potrebbe annoiarsi a stare con due anziani come me e mio marito dalla mattina alla sera. Quando può venire? Che cara! Comincio già a volerle bene. Nel suo cuore Mr. Gibson era molto felice che i due giovani di casa fossero fuori dai piedi. Non voleva che la sua piccola Molly passasse da Scilla a Cariddi. E poi, come in seguito avrebbe riso fra sé e sé, egli aveva l'idea che tutti i giovanotti fossero lupi a caccia di un agnellino. «Lei non sa quali piacevolezze l'aspettino», rispose. «E di certo io non ho idea di quali preparazioni femminili le possa ritenere necessarie o quanto tempo le porteranno via. Ricorderete che la ragazza è un po' ignorante e non ha alcuna erudizione in merito al galateo. I nostri modi a casa sono piuttosto rozzi per una fanciulla, temo. Ma so che non potrei mandarla in un contesto più gentile di questo». Quando lo squire apprese dalla moglie della proposta di Mr. Gibson, altrettanto lieto al pensiero della loro giovane amica, poiché era un uomo generoso e ospitale quando l'orgoglio non interferiva con la sua soddisfazione. ed era deliziato all'idea che la moglie malata avesse una compagnia così piacevole nelle ore in cui egli la lasciava sola. Dopo un po' disse: "È un bene che i ragazzi siano a Cambridge. Se fossero stati a casa, sarebbe potuta capitare una storia d'amore." "Beh, e anche se fosse?" chiese la sua romantica moglie. "Non sarebbe bene," decise lo squire. "Osborne riceverà un'istruzione di primissimo livello, tra le migliori della contea. Erediterà la proprietà, ed è un Hamley di Hamley. Non c'è famiglia nel circondario che sia più antica della nostra, o così radicata sul territorio come noi. Osborne può sposarsi dove gli aggrada. Se Lord Hollingford avesse una figlia, Osborne sarebbe il miglior partito che costei potrebbe desiderare. Non sarebbe bene che si innamorasse della figlia di Gibson, non lo permetterei. Perciò è opportuno che se ne stia alla larga." "Beh, forse Osborne farebbe bene ad avere ambizioni più alte." "Forse. Io dico che deve." Lo squire diede un pugno sul tavolo vicino a sé, provocando alla moglie per qualche minuto un forte batticuore. "E per quanto riguarda Roger," continuò, inconsapevole dell'agitazione che le aveva causato, "dovrà aprirsi la propria strada e guadagnarsi il pane. E ho paura che non stia andando così bene a Cambridge. Non deve pensare a innamorarsi per i prossimi 10 anni." "A meno che non sposi una donna molto ricca," suggerì Mrs. Hamley, più per nascondere le palpitazioni che per altri scopi. Infatti era quasi troppo ingenua e romantica. "Nessuno dei due figli sposerà una donna che sia più ricca di lui con la mia benedizione," dichiarò lo squire con enfasi, ma senza pugni sul tavolo. "Non dico che se Roger ricevesse 500 sterline all'anno quando compirà 30 anni non potrà scegliere una moglie con meno di 10.000 sterline, ma dico e sottolineo che se uno dei miei figli con sole 200 sterline all'anno, che è quanto Roger otterrà da noi e neanche per troppo tempo, andasse a sposare una donna con una dote di 50.000 sterline, io lo rinnegherei, sarebbe disgustoso." "Neanche se si amassero e la loro intera felicità dipendesse dal matrimonio?" tentò mansueta Mrs. Hamley. "Bah, lasciamo stare l'amore. No, mia cara, noi ci amavamo così tanto che non saremmo mai stati felici con nessun altro. Ma è una cosa diversa. La gente non è più come quando eravamo giovani noi. Al giorno d'oggi l'amore è solo una sciocca fantasticheria, un romanzetto sentimentale, a quanto vedo." Mr. Gibson pensò di programmare i dettagli della visita di Molly a Hamley prima di parlarne con lei. E infatti non glielo comunicò prima della mattina del giorno stesso in cui Mrs. Hamley attendeva il suo arrivo. Dunque esordì: "A proposito, Molly, questo pomeriggio andrai a Hamley. La signora ti vuole con sé per una settimana o due e che tu accetti il suo invito proprio ora si adatta perfettamente alle mie esigenze." "A Hamley? Questo pomeriggio? Papà sta nascondendo qualche oscura ragione? Un mistero, qualcosa di simile?" "Ti prego, dimmi di cosa si tratta. Andare a Hamley per 1 o 2 settimane? Ma se in tutta la mia vita non sono mai stata lontana da casa senza di te." "Forse no, e credo anche che tu non abbia mai camminato prima di posare i piedi per terra." "Ogni cosa ha un inizio." "Ha qualcosa a che vedere con quella lettera che era indirizzata a me e che tu mi hai preso dalle mani prima che potessi vedere la calligrafia sulla busta?" Molly fissò i suoi occhi grigi sul viso del padre, come se intendesse tirarvi fuori il suo segreto. Egli sorrise e disse solo: "Sei una strega, Occhetta." "Allora è così? Ma se era un messaggio da parte di Mrs. Hamley, perché non l'ho potuto vedere?" "Sin da quel giorno non faccio che chiedermi cosa stai architettando in quella tua testa. È stato giovedì, vero? Sei sempre sembrato pensieroso e perplesso da allora, proprio come un cospiratore." "Dimmi, papà," avvicinandosi e adottando un atteggiamento carezzevole, "perché non posso vedere quel biglietto? E perché tutto d'un tratto devo andare a Hamley? Non ti vedi andarci? Preferiresti di no?" Se lei avesse detto che non ci voleva andare, egli ne sarebbe stato contento, anche se questo l'avrebbe messo in una posizione piuttosto imbarazzante. Ma egli stava iniziando a temere il distacco da lei, anche per un così breve periodo. Ma Molly rispose direttamente: "Non so, direi che l'idea mi piacerà quando ci avrò pensato un po' su. È solo che adesso sono turbata dal fatto se è una cosa così improvvisa e non ho valutato se ne abbia voglia o no. So che mi dispiacerà separarmi da te. Perché devo andare, papà? Ci sono tre vecchiette sedute da qualche parte che pensano a te proprio in questo istante. Una regge una conocchia e sta girando il filo, ma è arrivata a un nodo e non sa cosa farne. Sua sorella ha in mano un bel paio di forbici e vuole, come sempre quando il filo si ingarbuglia, darci un taglio netto. Ma la terza, che è la più assennata delle tre, pensa come disfare il nodo ed è lei ad aver deciso che tu vada a Hamley. Le altre si sono lasciate convincere dai suoi ragionamenti. Perciò, già che le parche hanno decretato che questa visita va fatta, tu ed io non possiamo far altro che obbedire. Tutto questo non ha senso, papà, e mi stai solo rendendo più curiosa di scoprire la ragione nascosta. Mr. Gibson cambiò tono e ora parlò seriamente. Una ragione c'è, Molly, ed è una ragione che non desidero rivelarti. Quando ti dico questo, mi aspetto che tu sia una ragazza d'onore e che tenti di non fare congetture su quale possa essere, e che ti sforzi ancora meno di mettere insieme piccole rivelazioni fino a scovare molto probabilmente ciò che io desidero nascondere. Papà, io non ci voglio neanche più pensare ai tuoi motivi, però devo disturbarti con un'altra questione. Quest'anno non ho avuto nemmeno un vestito nuovo, gli abiti della scorsa estate mi stanno tutti piccoli. In tutto ne ho solo tre da poter indossare. Betty diceva proprio ieri che dovrei averne degli altri. Quello che indosso va bene, no? Il colore è molto carino. Sì, ma papà, sollevandolo un po' come se stesse danzando. È di lana, è caldo, è pesante e ogni giorno le temperature sono più alte. Vorrei che le ragazze si vestissero come i maschi, disse Mr. Gibson con un cenno di impazienza. Come fa un uomo a sapere quando sua figlia ha bisogno di abiti, e come fa a fornirgli quando lo scopre e proprio quando lei ne ha più esigenza e non ne possiede? Ah, questo è il problema, chiuso Molly, quasi disperata. Non puoi andare al negozio di Miss Rose? Non ha a disposizione anche abiti confezionati per le ragazze della tua età? Miss Rose? Ma non ho mai comprato niente da lei in tutta la mia vita, replicò Molly, un po' sorpresa. Miss Rose, infatti, era la grandiosa sarta e modista delle piccole città e fino a quel momento era stata Betty a confezionare gli abiti per la ragazza. Beh, sembra che la gente ti consideri ormai una giovane donna, perciò suppongo che dovremo accumulare i conti della sarta come fanno tutte le altre. È escluso che otterrai da qualche parte qualcosa che tu non possa pagare sull'unghia con denaro contante. Eccoti una banconota da 10 sterline. Vai da Miss Rose o da Miss Batte la Pesca e prenditi subito quello che vuoi. La carrozza degli Hamley viene a prenderti alle 2 e quello che non sarà pronto in quel momento ti sarà tranquillamente fatto recapitare con il carretto sabato, quando alcuni dei loro domestici vengono in città per il mercato. No, non mi ringraziare. Non desidero che tu spenda questo denaro e non desidero che tu vada via e mi lasci solo. Ti mancherai, sai. È solo un'impellente necessità che mi induce a mandarti in visita e a buttar via 10 sterline per i tuoi vestiti. Ecco, va via. Sei un tormento e intendo smettere di volerti bene quanto prima. Papà! Ammonì lei con l'indice elevato. Stai tornando a essere misterioso e per quanto la mia onorabilità sia molto forte, non ti prometto che non cederò la curiosità se continui ad alludere a dei segreti inespressi. Vai via e spendi le tue 10 sterline. Per che cosa te le ho date se non per farti stare zitta? Gli articoli a disposizione di Miss Rose e il gusto di Molly combinati insieme non diedero un gran risultato. Comprò uno stampato color lilla perché avrebbe resistito bene al lavaggio e sarebbe stato fresco e piacevole per le mattine. E Betty avrebbe potuto cucirla a casa prima di sabato. E per le occasioni eleganti e i festivi, ovvero i pomeriggi e le domeniche, Miss Rose la convinse a ordinare della impalpabile seta a quadri dai colori vivaci, che le garantì a Londra era l'ultima moda, e che Molly pensò avrebbe lusingato le origini scozzesi del padre. Ma quando egli vide lo scampolo che lei portò a casa come campione, esclamò che il motivo non apparteneva ad alcun clan esistente e che Molly avrebbe dovuto saperlo per istinto. Però era troppo tardi per cambiare la stoffa, perché Miss Rosa aveva permesso di tagliarla e non appena moglie avesse lasciato il negozio. Mr. Gibson gironzolò per tutta la mattina in città, invece di intraprendere le sue solite cavalcate verso le destinazioni più lontane. Un paio di volte superò la figlia lungo la strada, ma non la attraversò quando si trovava dal lato opposto. Le diede solo un'occhiata e lo fece con un cenno di testa e proseguì, biasimandosi per il fatto di essere talmente debole da provare dolore al pensiero che lei si assentasse per una quindicina di giorni. E dopo tutto, pensò, quando ritornerà io sarò semplicemente al punto in cui ero prima. Perlomeno, se quello sciocco giovanotto persevera con le sue fantasticherie. A un certo punto lei dovrà tornare a casa e se egli decide di immaginarsi costante nei suoi sentimenti saranno guai. E subito si mise a canticchiare a mezza bocca l'aria tratta dalla Beggar's Opera. Mi chiedo se esista un uomo che abbia mai dovuto crescere una figlia. Capitolo 6. Una visita agli Amley. Ovviamente la notizia dell'imminente partenza di Miss Gibson si era diffusa in tutta la casa prima che arrivasse l'una, ora di pranzo, e l'espressione sgomenta di Mr. Cox fu causa di molta irritazione repressa per Mr. Gibson, che si trattenne dal lanciare al giovane aspre e furiose occhiate di rimprovero per quella sua faccia malinconica e la mancanza di appetito. Questi sintomi il ragazzo li esibiva con una buona dose di triste ostentazione. Ma di tutto questo Molly non era consapevole, perché era troppo occupata coi propri impegni per avere pensieri o osservazioni da dedicare ad altro, a eccezione di un paio di occasioni in cui si rese conto dei molti giorni che sarebbero dovuti passare prima che si sedesse di nuovo a pranzo in compagnia del padre. Quando gliene parlò, alla fine del pasto, seduti insieme in salotto ad attendere il suono della carrozza degli Amley, egli rise e disse: Domani verrò a visitare Mrs. Hamley e oso credere che pranzerò con loro. Perciò non dovrei aspettare a lungo prima di godere della vista di una bestia selvaggia che viene nutrita. A quel punto udirono la carrozza. Oh, papà, disse Molly, prendendogli la mano, vorrei tanto non dover andare. Ora è giunto il momento. Sciocchezze, non ci perdiamo in smancerie. Hai le tue chiavi? Questa è una cosa più utile. Sì, aveva le chiavi e il borsellino. Il suo piccolo baule fu posto a cassetta, accanto al conducente. Suo padre l'aiutò a salire. La porta fu chiusa e la ragazza scivolò via, in solitaria grandezza, guardandosi indietro e mandando baci a Mr. Gibson, che rimase in piedi presso il cancello a dispetto del suo rifiuto dell'emotività, fino a che la vettura scomparve. Allora tornò in ambulatorio e scoprì che anche Mr. Cox era rimasto a guardare, anzi, era rimasto a osservare da dietro il vetro, come un matto, la strada vuota lungo la quale la giovane era svanita. Mr. Gibson lo risvegliò dai suoi sogni, parlandogli bruscamente, quasi velenosamente, a proposito di una lieve negligenza dei suoi doveri verificatasi un paio di giorni prima. Quella notte, Mr. Gibson insistette per andare al capezzale di una povera ragazza, i cui genitori erano esausti per le numerose notti trascorse insonni e in preda all'ansia, a seguito di giornate di duro lavoro. Molly pianse un poco, ma ricacciò indietro le lacrime quando ricordò quanto avrebbero dato fastidio al padre. Era così piacevole viaggiare in quella carrozza lussuosa attraverso i bei prati verdi, le profusioni di rose canine e caprifoglio e le siepi traboccanti di fioriture precoci, che ella fu talvolta quasi tentata di chiedere al conducente di fermarsi per permetterle di raccoglierne un mazzolino. Cominciò a temere la conclusione di quel breve percorso di 7 miglia. Il solo inconveniente era che la seta che aveva comprato non era autentico tartan e una lieve incertezza in merito alla puntualità di Miss Rose. Alla fine giunsero al villaggio, cottage sparsi lungo la strada, un'antica chiesa che si ergeva su una specie di prato, con il pub nelle immediate vicinanze. Un grosso albero con una panchina che correva intorno al tronco, a metà strada tra i cancelli della chiesa e la piccola locanda. Le scorte di legna erano ammassate accanto alla cancellata. Molly aveva di gran lunga superato i limiti delle sue uscite a cavallo, ma sapeva che quello doveva essere il villaggio di Hamley e che dovevano trovarsi molto vicini alla casa. In pochi minuti entrarono dai cancelli del parco e risalirono attraverso un campo in cui riposava il fieno. Non si trattava di una nobile aristocratica riserva per cervi, fino alla dimora di mattoni rossi, a nemmeno 300 yard dalla strada principale. Nessun valletto era stato mandato insieme alla carrozza, ma un domestico rispettabile stava in piedi sulla porta, anche prima che si avvicinassero, pronto a ricevere l'attesa visitatrice e a condurla nel salotto dove la padrona si era stesa ad aspettarla. Mrs. Hamley si alzò dal divano per dare a Molly un gentile benvenuto. Tenne la mano della ragazza nelle proprie dopo che ebbe finito di parlare, guardandola in viso come per studiarlo e inconsapevole del debole rossore che era stato risvegliato sulle guance altrimenti esangui. «Penso che saremo grandi amiche», decretò alla fine. «Il vostro viso mi piace e io mi lascio sempre guidare dalle prime impressioni. Datemi un bacio, mia cara». Era molto più facile essere attivi che passivi in questo processo di giuramento di eterna amicizia e Molly baciò volentieri il dolce viso pallido che le veniva a porto. «Intendevo venire a prendervi io stessa, ma il caldo mi opprime e non me la sento di fare sforzi. Spero che il percorso sia stato piacevole». «Molto», rispose Molly con timida concisione. «E ora vi porterò nella vostra stanza. Vi ho sistemata vicino alla mia. Ho pensato che l'avreste preferito, anche se è una camera più piccola dell'altra». La donna si alzò languidamente e, avvolgendosi uno scialle leggero intorno alla figura ancora elegante, fece strada verso il piano superiore. La stanza di Molly si apriva sul salottino privato di Mrs. Hamley. Dall'altra parte c'era la sua camera da letto. Ella mostrò all'ospite questa agevole via di comunicazione e poi, dicendole che l'avrebbe aspettata in salotto, chiuse la porta e Molly fu lasciata a fare amicizia con il nuovo ambiente. Prima di tutto andò alla finestra a vedere quello che c'era da vedere. Proprio sotto c'era un giardino fiorito, un prato d'erba matura appena più in là, che mutava colore in lunghe distese quando la brezza l'accarezzava. Un po' a lato, maestosi e antichi alberi, e oltre, cosa che si poteva scorgere solo stando molto vicini alla cornice del vetro, oppure sporgendo la testa all'esterno se la finestra era aperta, il luccichio argenteo di un laghetto, a circa un quarto di miglio di distanza. Sul lato opposto rispetto agli alberi e allo stagno, la vista era occlusa dalle vecchie mura e dai tetti aguzzi degli ampi edifici connessi alla fattoria. La delizia del silenzio della prima estate era interrotta solo dal canto degli uccelli e dal più vicino ronzio delle api. Ascoltando questi suoni, che intensificavano lo squisito senso di quiete, e cercando di indovinare gli oggetti oscurati dall'ombra o dalla distanza, Molly dimenticò se stessa e fu all'improvviso risvegliata alla coscienza del presente da un rumore di voci nella stanza accanto, una domestica che parlava con Mrs. Hamley. Molly corse a disfare il baule e a sistemare i pochi abiti nella cassettiera belle antica, che le sarebbe servita anche da toeletta. Tutto il mobilio nella camera era antiquato e conservato perfettamente. Le tende di chintz erano in calicò indiano del secolo scorso. I colori erano sbiaditi, ma la stoffa era deliziosamente pulita. Accanto al letto si trovava una sottile striscia di moquette, ma il pavimento in legno, posato con generosità, era di finissima quercia e i listelli erano stati collocati in modo così inappuntabile che non un solo granello di polvere si poteva infilare fra gli interstizi. Mancavano tutti i lussi dei tempi moderni. Non c'erano né uno scrittoio, né un sofà, né una specchiera. In un angolo tra le pareti si trovava una mensola che reggeva un vaso indiano colmo di potpourri. Questo e il caprifoglio rampicante che cresceva fuori dalla finestra aperta profumavano la stanza con maggiore raffinatezza di qualsiasi fragranza da toeletta. Molly stese sul letto l'abito bianco della taglia di un anno prima, pronto per l'operazione, per lei nuova, di cambiarsi per la cena. E dopo essersi sistemati i capelli e il vestito e aver tirato fuori il lavoro di lana pettinata per le ore spese in compagnia, aprì dolcemente la porta e vide Mrs. Hamley distesa sul divano. «Stiamo qui di sopra, mia cara. Penso sia più piacevole che da basso e poi non sarò costretta a risalire per cambiarmi. Mi piacerebbe molto, rispose Molly. Ah, avete il vostro cucito, come una brava fanciulla, notò Mrs. Hamley. Ora, io non lavoro spesso, passo molto tempo da sola. Vedete, entrambi i miei figli sono a Cambridge e lo Squire sta fuori casa tutto il giorno. Così quasi mi sono dimenticata come si fa a cucire. Leggo tantissimo. A voi piace leggere? Dipende dal genere di libro, disse Molly. Temo che non mi piacciono le letture serie, come le chiama papà. Ma vi piace la poesia? Fece Mrs. Hamley quasi interrompendola. Ne sono certa. Ve lo leggo in volto. Avete letto quest'ultimo componimento di Mrs. Hemans? Volete che ve lo legga? E iniziò. Molly non era così assorbita nell'ascolto da non guardarsi intorno. Il tipo di arredamento della stanza era lo stesso della sua camera. All'antica, materiale di pregio e immacolato. L'età e l'aspetto straniero conferivano all'appartamento un aspetto comodo e pittoresco. Alle pareti erano appesi dei disegni a pastello, ritratti. Pensavo di riconoscere in uno di quelli le sembianze di Mrs. Hamley nella sua bellezza giovanile. Poi si interessò alla poesia, lasciò cadere il lavoro e si pose in ascolto in un modo che rispondeva al cuore di Mrs. Hamley. Quando la lettura fu conclusa, la donna replicò ad alcune parole ammirate di Molly dicendo: Ah, penso che dovrò leggervi qualche poesia di Osborne uno di questi giorni, ma ricordate, sarà un segreto e credo che siano quasi all'altezza di quelle di Mrs. Hemans. Per una ragazza di quell'epoca, essere quasi all'altezza di Mrs. Hemans voleva dire come essere all'altezza della poesia di Tennyson al giorno d'oggi. Molly alzò gli occhi con viva partecipazione. Mister Osborne Hamley, vostro figlio scrive poesie? Sì, in realtà credo di poter dire che è un poeta. È un giovane molto brillante e intelligente e spera proprio di ottenere una posizione al Trinity. Dice di essere certo di poter competere con i primi in matematica e che si aspetta di ricevere una medaglia del cancelliere. Quello è il suo ritratto, quello appeso al muro dietro di voi. Molly si girò e vide uno dei disegni a pastello. Rappresentava due ragazzi abbigliati con giacche e pantaloni adolescenziali e con ampi colletti. Il più grande era seduto intento a leggere, il più giovane era in piedi accanto a lui e tentava evidentemente di attirare la sua attenzione verso qualcosa che si trovava all'esterno, fuori dalla finestra della stanza stessa in cui sedevano. Come Molly scoprì quando iniziò a riconoscere gli articoli di arredamento che il disegno rappresentava vagamente. Mi piacciono i loro volti, dichiarò. Penso sia passato molto tempo da allora. Dunque posso parlarvi dei loro ritratti come se appartenessero ad altre persone, giusto? Certo, disse Mrs. Hamley non appena capì di cosa Molly stesse parlando. Ditemi ciò che pensate di loro, mia cara. Mi divertirò a paragonare le vostre impressioni con la realtà. Oh, ma non intendevo indovinare il loro carattere. Non potrei farlo e sarebbe impertinente se lo facessi. Posso parlare solo del loro viso, come lo vedo nel quadro. Beh, ditemi cosa ne pensate. Il più grande, il ragazzo che legge, è molto bello, ma non posso vedere precisamente la sua faccia perché ha la testa china. E non scorgo gli occhi. Quello è Mr. Osborne Hamley che scrive poesie? Sì. Ora non è più così bello, ma era un bambino splendido. Roger non gliene è mai stato paragonabile. No, non è bello, eppure il suo viso mi piace. Riesco a vedere i suoi occhi. Sono gravi e solenni, ma tutto il resto del viso è allegro. Sembra troppo compassato, una faccia troppo diligente per tentare il fratello a lasciare la sua lezione. Ah, ma non era una lezione. Mi ricordo che il pittore, Mr. Green, una volta vide Osborne che leggeva poesie, mentre Roger cercava di persuaderlo a uscire e a fare un giro in calesse. Ecco l'ispirazione del disegno, per dirla come gli artisti. Roger non è un gran lettore, Perlomeno non si interessa di poesia e di libri che parlano di storie d'amore, di sentimenti. È davvero appassionato di storia naturale e questo lo porta, come lo Squire, a trascorrere molto tempo all'aperto. Quando è in casa, legge sempre libri di scienza che riguardano i suoi interessi. È un bravo ragazzo, disciplinato e ci dà grandi soddisfazioni, ma è improbabile che avrà una carriera brillante come quella di Osborne. Molly cercò di scoprire nel disegno le caratteristiche dei due ragazzi, come le venivano ora descritte dalla loro madre, e con domande e risposte a proposito dei vari disegni appesi per la stanza, il tempo passò, fino a che la campanella delle 6 annunciò che era ora di cambiarsi per la cena.